Questo era Nordost di Thorsten Buchsteiner nella versione italiana di Luca Viganò con Barbara Lesse, Federica Granata, Irene Villa, per la regia di Andrea Battistini, che sarà in scena al Teatro Argo Studio dal 14 al 16 marzo prossimi, quindi giovedì, venerdì e sabato. Le informazioni, una breve sinossi e un link di riferimento al Teatro Argo Studio, scena sensibile, la rassegna che è in corso appunto al Teatro Argo, la trovate sul sito internet della radio www.ondarossa.info, la voce trasmissioni radio teatro, e poi l'agenda della settimana teatrale romana che comunque cureremo tra poco con il nostro Simone. Siamo in collegamento con Barbara Lesse, giusto? Sì, ciao, buongiorno a tutti. Allora, grazie di questo contributo, complimenti. Grazie. Tra poco invece vi si vedrà proprio in scena. Sì, noi siamo, tra l'altro siamo in contemporanea con voi praticamente, perché stiamo provando e abbiamo iniziato una filata, cioè una prova, diciamo, senza interruzioni, praticamente in contemporanea con la messa in onda dello spettacolo, e anche noi abbiamo quasi finito, diciamo, la nostra prova. E sì, siamo pronte ormai, insomma, lo spettacolo in realtà che ha debuttato nel 2010 al Teatro Stabile di Genova, come Mise en Espace, nella rassegna di teatro contemporaneo, e poi noi tre effettivamente ci siamo veramente appassionate al tema, sicuramente a questi tre personaggi così diversi che in qualche modo poi si trovano a dialogare in questo posto magico come può essere appunto un palco del teatro. Si incontrano stranamente, perché poi effettivamente non si incontreranno mai se non in quelle tragiche circostanze, e raccontano questa storia che, almeno secondo noi, sembra quasi una tragedia contemporanea dalla struttura classica, cioè senza una vera e propria soluzione, perché in fin dei conti i veri colpevoli di una tragedia del genere alla fine non sono presenti, come se alla fine questa situazione si abbattesse su tutte e tre le protagoniste femminili, dalla Cecena alle vittime dell'attentato, che è poi effettivamente l'estrema conseguenza di una situazione insopportabile. Tra l'altro, come avete sentito, insomma, nello spettacolo si nomina anche Anna Politkovskaya, perché sì, è sicuramente l'unica giornalista che in una Russia completamente indifferente poi a quello che erano i problemi della Cecenia, si è interessata e si è fatta carico di portare poi le voci di tanti disperati sia in Russia che in tutto il mondo poi per essere sentite. Ed è interessante, infatti noi poi scopriamo sempre nel testo tante motivazioni che poi potrebbero essere anche le motivazioni di chiunque di noi, cioè la Cecenia è lontana 2000 chilometri, tutto questo non ha niente a che fare con noi. È vero, cioè noi siamo portati a pensare che tutto quello che non ci riguarda direttamente, perché non ci coinvolge direttamente, non sia far nostro, ma non è così, purtroppo non è così, se viviamo in un mondo dove questo non è più possibile né sopportabile, per cui siamo assolutamente colpevoli o quantomeno responsabili di quello che i nostri governi decidono per noi. Questo io lo dico anche perché poi, insomma, voglio dire, chiaramente lo spettacolo prende in considerazione i punti di vista di persone in qualche modo coinvolte nei fatti, quindi si parla comunque di russi e ceceni, ma in realtà poi si parla anche di personaggi politici come Putin, che in qualche modo hanno anche a che vedere con la nostra storia, di noi italiani, con la nostra storia politica recente. Insomma, anche noi dovremmo un pochino sapere con chi poi in effetti abbiamo avuto e abbiamo tuttora a che fare, con chi stiamo dialogando, perché secondo me anche questo è molto importante. Cioè, lo spettacolo, è vero, parte sicuramente da un discorso, come dire, diciamo da un fatto realmente accaduto, per poi portare lo spettatore, in questo caso l'ascoltatore, a fare delle considerazioni molto più generali, però nulla toglie al fatto che ci sono drammi di cui noi tra l'altro non sappiamo quasi nulla, perché ecco appunto anche l'attentato al teatro Dubrovka, che è una cosa secondo me tremenda, perché tocca in effetti le persone nel momento meraviglioso della loro vita in cui cercano di distrarsi, e in realtà è metafora anche di quello che succede poi in una guerra, dove ci sono tante persone assolutamente innocenti la cui vita viene completamente fatta saltare in aria. Quindi insomma vabbè, chiaramente noi siamo molto appassionati tutte e tre rispetto a questo spettacolo, non finiamo mai di stupirci, di trovare tanti significati. Per noi è anche poi chiaramente dal punto di vista umano estremamente coinvolgente interpretare questi tre personaggi. Senti Barbara, il testo di riferimento di Buchsteiner e poi la scelta di questi di queste tre protagoniste al femminile. Sì. Buchsteiner scrive in realtà un testo di finzione, perché prende spunto da un fatto realmente accaduto, poi costruisce questi tre personaggi in realtà in maniera molto molto molto realistica, perché costruendo poi lo spettacolo noi siamo andati a documentarci su quelli che poi forse erano anche le fonti stesse di Buchsteiner, e abbiamo ritrovato stralci di interviste, momenti di documentari dove lui sicuramente aveva preso ispirazione, e in effetti è tutto estremamente realistico. La sua qualità risiede anche nel saper descrivere in maniera eccezionale le immagini, cioè effettivamente questo è un teatro di narrazione, ma molti spettatori ci dicono che è meraviglioso il fatto che noi riusciamo a descrivere, a dipingere delle immagini che realmente non ci sono. Tant'è vero che lo spettacolo, anche per un discorso di rigore, è stato costruito senza utilizzare una che fosse una immagine di repertorio. Cioè, è tutto nell'immaginazione dello spettatore ed ha una valenza 100 volte più forte. Secondo me è molto bello riuscire veramente a calarsi nei panni di chi una situazione del genere l'ha vissuta. Barbara, per chi volesse saperne di più sulla vostra attività, ci sono dei riferimenti internet per voi tre attrici? Sì, vabbè, sicuramente noi siamo su Facebook, che ormai è diventato una specie di ufficio stampa incredibile, sia io, Barbara Alessia, che Irene Villa, e c'è un evento di Nordost dove tra l'altro segnaliamo anche le altre date, perché subito dopo Roma saremo a Torino e poi ad aprile a Padova, ci stiamo muovendo anche per la prossima stagione. E altrimenti c'è il sito del Teatro di Castalia, che è la compagnia che produce questo spettacolo, è una compagnia torinese, perché so che c'è un'altra compagnia romana che ha più o meno lo stesso nome, dovrebbe essere www.teatrodicastalia.org se non sbaglio, ma prendetelo con le pinze, perché in effetti in questo momento non ho il riferimento con me. Si può cercare su un motore di ricerca, certo. Allora, sì, altrimenti chiaramente www.teatrostudioargo.com. Esatto. Allora, Barbara, di nuovo complimenti, ricordiamolo, da giovedì a sabato, il 14, 15 e 16 marzo al Teatro Argo Studio, nell'ambito della rassegna Scena Sensibile. Sì, è una rassegna di teatro al femminile, dove noi abbiamo trovato uno spazio più che congruente appunto per il nostro spettacolo, ore 21, per prenotazioni appunto basta rivolgersi al teatro, ma basterà sicuramente anche presentarsi direttamente al botteghino poco prima. D'accordo? Un abbraccio e a risentirci presto. Un abbraccio a tutti voi, grazie mille, a presto, ciao, a prestissimo. Ciao, ciao.